buonasera a tutti. Se con calma ci possiamo accomodare, così intanto porto i saluti della Biblioteca Claudio Busta, che ha partecipato all'organizzazione di questa iniziativa che questa sera ha molti ospiti. La biblioteca partecipa all'organizzazione, alla promozione di molti eventi, presentazioni di libri, conferenze. Questa sera abbiamo la presentazione di un libro che è un modo per parlare del tema dell'adozione in senso ampio e portare un dibattito, si spera, questa sera, le vostre domande, i vostri interventi. Come dicevo, gli ospiti sono tanti. Io vi ruberò soltanto un minuto per innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono qui, ringraziare voi di essere venuti anche questa sera così numerosi. La biblioteca organizza, come dicevo, varie iniziative, e questo giovedì ci sarà un'altra iniziativa nella sede però della biblioteca. Non saremo qui, la biblioteca ha la sede qui al piano zero, diciamo, e ci sarà la presentazione di un romanzo di Ettore Frangipane, un romanzo. La settimana scorsa era qui a presentare Bolzano scomparsa numero 10, questo giovedì invece verrà a presentare un suo romanzo, l'ultimo romanzo. Lunedì prossimo invece, qui in sala più 1, avremo una vera e propria, diciamo così, rappresentazione teatrale con Andrea Brunello. È ideato e realizzato uno spettacolo sulla scienza, quindi sarà il nostro ultimo appuntamento per quest'anno dedicato alla scienza, alla fisica, alle scienze diciamo in generale. Io mi fermerei qui e lascerei la parola poi per la presentazione delle varie associazioni che sono qui presenti questa sera, dell'autrice che presenta qui il suo libro. Lascerei poi la parola a Michela che modererà, diciamo, presenterà questa serata e tutti i suoi ospiti. Io vi ringrazio ancora a voi di essere venuti e ringrazio voi di aver voluto realizzare questa presentazione qui. Ricordo che la collega Monica ha portato un po' di libri che parlano, diciamo, che hanno come tema l'adozione, sono libri da prendere in prestito per chi volesse. C'è anche la possibilità, mi dicevano, di acquistare invece il libro che viene presentato questa sera, a fine serata, e le copie si trovano lì. Questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio ancora, lascio la parola a Michela. Grazie ancora. Grazie sempre alla Biblioteca Claudio Augusta che ci ospita a queste presentazioni. Oggi siamo molto emozionati perché l'invito che gli ha fatto a Giusy Musumeci su quel bellissimo libro che ha fatto è un po' stato scelto da questo così gruppo di lavoro fatto da Amici dei Bambini, l'azienda Servizi Sociali con il Servizio Adozioni e l'associazione Amici Trentini, perché abbiamo detto quest'anno lo vogliamo dedicare all'approfondimento del tema delle origini. Questo è un tema che vediamo nell'adozione, spesso viene fuori, quindi abbiamo detto cerchiamo un attimo di approfondirlo. L'abbiamo cercato di approfondire in un convegno, poi c'è stato un film, abbiamo proiettato lì, e oggi abbiamo la presentazione di questo libro che ci ha molto colpito, perché è un libro che chiude un po' il cerchio, no? E inizia con una storia raccontata da una figlia, da una figlia adottiva, che diventa poi a sua volta madre adottiva, no? Quindi questa è un po' la parte che ci ha colpito molto ed è molto profondo, e oggi abbiamo pensato un po' di presentarlo, magari presentiamo la nostra autrice. Buonasera, grazie innanzitutto, grazie mille dell'invito di questa occasione, perché per me è sempre un'emozione grandissima tornare sulla mia storia e poterla condividere con e altre persone che stanno vivendo o che magari stanno pensando se iniziare o meno questo percorso. E appunto è la mia storia di tratti molto particolari, come vedrete, e io non anticipo nulla adesso perché è stato preparato un percorso molto bello, tra l'altro per me è una novità, una presentazione svolta in questo modo, per cui sono anche molto curiosa e desiderosa di vedere cosa accadrà. E appunto io per prima sono sempre molto emozionata, come dicevo prima, e grata perché poter rivedere la propria storia è sempre una grande occasione. Poi torno sempre a casa arricchita e con domande aperte magari, per cui innanzitutto questi momenti sono molto belli e significativi per me, e per cui buon ascolto, e dopo per chi desidera fate pure delle domande, perché è interessante che si possa aprire un dialogo insieme piuttosto che sentire ancora me parlare. Parliamo insieme, condividiamo un po' il resto della serata così con i vostri interventi e le vostre domande. Grazie mille. Abbiamo pensato oggi, con l'aiuto di Raffaella Cartalossi, rappresentare questo libro con delle letture raccontate appunto da questa nostra bravissima collega. Bravissima, già. Ecco, allora ci lasciamo. Ecco, questo ci dà lo spunto per ricordare di spegnere i cellulari. Riusciamo a disconnessi con Moretta. Cúcuta, Colombia. Era il 3 settembre del 1976. Quel giorno due donne che il destino aveva voluto far incontrare e legare per sempre, con un legame che nessuno può spezzare, si guardarono per la prima volta. Una era piccola, appena nata, e dopo 9 mesi di attesa gridava alla mamma tutto il suo desiderio di vita. Con il suo pianto e il suo sorriso ancora incerto, ringraziava l'altra donna, già adulta, per averla voluta e amata con tutte le sue forze. Quella piccolina fortunata gustava i suoi primi istanti di esistenza, ma non sapeva ancora che un grande dolore cresceva nel cuore della sua mamma. Lei per mesi aveva rimandato il pensiero di quel che sarebbe stato, pensando solo a sua figlia, piccolo essere indifeso eppure così temuto da altri, e a come fare per proteggerla. Il giorno più bello per ogni mamma, per lei, era arrivato troppo presto, perché non era ancora pronta a prendere la decisione più sofferta che mai avrebbe voluto prendere. Forse sperando che qualcuno all'improvviso le porgesse una mano, decise di rimandare ancora. Se avesse potuto, avrebbe fermato il tempo per poter catturare nei suoi occhi e conservare per sempre dentro di sé il più piccolo movimento della sua bambina, il battito delle sue ciglia, le sue tenere smorfie mentre dormiva, o prima di scoppiare in un pianto inatteso. Il tempo, però, scorreva rapido e la realtà irrompeva inarrestabile dentro quel piccolo appartamento, povero e dignitoso, dove lei, Rosalia, aveva desiderato poter vivere con la sua bambina. Rosalia era una ragazza di umili origini, nata in una famiglia povera, e lei, seconda di 8 fratelli, sentiva forte la responsabilità di aiutare i suoi. Per questo motivo si era trasferita in città, dopo aver studiato per tanti anni in un istituto di suore. Grazie a loro, a cui voleva molto bene, e da cui era ricambiata per il suo carattere gioviale e per la sua dedizione al lavoro, aveva avuto l'opportunità di trovare un impiego a Cúcuta. In tal modo le era stato possibile realizzare il suo desiderio di aiutare la propria famiglia rimasta nel piccolo paese di montagna. La vita l'aveva presa alla sprovvista già una volta, quando in città da qualche mese con il cuore pieno di sogni, Rosalia aveva incontrato un ragazzo bello e interessante, da cui si era sentita guardata come una donna e amata per la prima volta. La sua ingenuità le aveva fatto credere che i suoi desideri più profondi, quelli che ogni donna custodisce nel proprio cuore, si sarebbero realizzati insieme a quel giovane. Ma lui non era pronto. E di fronte all'amore grande di quella ragazza semplice e profondamente dedita alla sua famiglia e ai suoi doveri verso di loro, non aveva retto e l'aveva lasciata sola ad affrontare una prova molto più grande di lei. Così, da quel giorno in cui Rosalia aveva dovuto scegliere cosa fare di quella vita che stava crescendo nel suo grembo e nel suo cuore, pur sapendo che nulla sarebbe stato mai più come prima, decise di accogliere la vita. Lei, che nella sua aveva sempre dovuto guadagnarsi tutto, sentiva quella piccola creatura come un dono che le era stato affidato, e tutto il resto non importava. In qualche modo avrebbe fatto, ma per prima cosa doveva tornare a casa e raccontare ai suoi genitori quello che le era accaduto. Sua madre, Rosa Maria, era una donna buona e generosa che nella sua semplice fede contadina avrebbe accolto quella notizia come una benedizione di Dio sulla loro povera casa. Ma suo padre, cosa le avrebbe detto o cosa le avrebbe fatto? Troppe volte Rosalia aveva ascoltato spaventata le urla di suo padre, arrabbiato e ubriaco contro la sua povera mamma. Rosa Maria mai aveva fatto pesare ai figli il suo dolore di fronte alle reazioni incomprensibili di quell'uomo che un tempo era stato buono, ma che la miseria e le abitudini errate avevano reso duro. Rosalia era ancora molto giovane e troppo grande era il timore di suo padre, e mentre i giorni e i mesi passavano, dentro di sé sentiva che quel giorno in cui i suoi genitori l'avrebbero abbracciata forte dicendole che tutto sarebbe andato bene, non sarebbe mai arrivato. Nel lento e inesorabile scorrere delle ore, Rosalia aveva capito che le mancava la forza necessaria per affrontare suo padre, e mentre il dolore la attanagliava, maturava lentamente una decisione amara. Sembrava quasi che qualcuno le stesse succedendo una risposta, poiché, ormai prossima al parto, si era soffermata spesso pensierosa a guardare quel bel edificio rosa che si trovava proprio di fronte al suo minuscolo alloggio. Era una costruzione curata e diversa rispetto ai palazzi circostanti. Fuori dal cancello, un cartello portava scritto «Asilo Andresen». E dentro c'era una piccola cappella dove Rosalia aveva iniziato ad andare per chiedere a Dio che le facesse capire cosa fare. Un giorno una giovane suora le si era avvicinata vedendola così addolorata e le aveva chiesto il perché di quel dolore, quando tutto in lei avrebbe dovuto essere gioia per la creatura che portava in grembo. Quella fu la prima volta in cui Rosalia ebbe il coraggio di raccontare cosa le era successo e di chiedere a qualcuno che l'aiutasse a capire cosa fare. La suora si commosse profondamente ascoltando la sua storia e le raccontò che quell'asilo era stato fondato molti anni prima da una ricca signora di origine olandese affinché i tanti bambini orfani o abbandonati della città avessero un luogo dignitoso e sano dove essere accuditi, fino a quando le suore non avessero trovato per loro una famiglia adottiva. La giovane ermana spiegò a Rosalia che tante mamme erano costrette da circostanze diverse a lasciare i propri bambini. Questo gesto era fonte di un dolore grande che non si sarebbe mai placato, però la certezza che un futuro migliore fosse preparato per i loro figli era più forte del sacrificio che facevano. E nel tempo questo avrebbe dato loro consolazione. Rosalia era cresciuta in una famiglia dove la povertà non era stata mai obiezione ad accogliere i tanti figli che Dio mandava. Ma per lei la situazione era diversa e le parole scambiate con la suora le apparvero come un inizio di risposta che da tempo chiedeva. Prima che sua figlia venisse al mondo, la possibilità suggerita dalla suora le era sembrata l'unica strada giusta da percorrere. Ma una volta nata, dopo averla vista e tenuta stretta a sé, aveva capito che quella strada era molto più dolorosa di quanto avesse immaginato. Così, nei giorni successivi, aveva ancora cercato una soluzione. E se qualcuno le avesse dato un lavoro, pur sapendo che aveva una bambina da curare, lei sarebbe stata felicissima e nel suo sacrificio le sarebbe pesato pur di poter continuare a tenerla con sé. Tuttavia, a quel tempo nessuno era disposto a prendere a servizio una donna sola con un neonato. Troppo rischioso. Ogni malanno del bambino sarebbe stato un giorno in meno di lavoro. In un paese povero, dove le esigenze dei più poveri non sono prese in considerazione, la vicenda di Rosalia era una tra le tante storie sfortunate, ma da commiserare magari, ma niente di più. Lei, nella sua vita, aveva dovuto e ancora avrebbe dovuto convivere con la povertà, gli stenti e i sacrifici. Ma per la sua bambina non voleva quella vita. Per lei desiderava tutto il bene possibile. La sua bimba aveva diritto a una famiglia vera, con una mamma e un papà che si volessero bene, che avrebbero fatto qualunque cosa per lei e le avrebbero dato tutto ciò che sarebbe servito per farla crescere sana e serena. Le avrebbero comprato tante cose, anche dei giochi. Avrebbero colto subito ogni suo piccolo malessere e sarebbe stata curata e accudita come una principessa. Poi l'avrebbero mandata a scuola e avrebbero incoraggiato i suoi passi nella vita fino a vederla diventare donna. Lei avrebbe fatto questo se avesse avuto la possibilità. Ma fino a quel 3 di settembre nulla era cambiato e con una pena sempre più forte dentro il suo grande cuore, Rosalia si preparava a separarsi dalla sua bambina. Quel giorno così doloroso, l'11 settembre del 1976, arrivò Cupo. Quella mattina il cielo non si decideva a colorarsi di azzurro e il sole non voleva mostrarsi, mentre qualche goccia aveva iniziato a cadere sin dalle prime luci dell'alba. Rosalia non aveva dormito tutta la notte perché voleva fissare per sempre nel suo ricordo quel visino piccolo e bianco come la neve, quelle manine così sottili e delicate, quel naso così fine e quella bocca rosa. Fissava sua figlia e piangeva. Arrivò il momento. Il coraggio le mancava e le sembrava che il cuore non avrebbe retto alla separazione, che quel pezzo di strada sarebbe stato riattraversato dopo qualche ora per riportarla a casa con lei. Ma in quel momento non c'era altro da fare. Mentre l'abbracciava forte, prima di suonare quel campanello che mai avrebbe voluto suonare, continuava a ripetere: «È per te che lo faccio, piccola mia. Perdonami». Le suore l'accorsero con un grande sorriso, un sorriso carico di pietà per il suo gesto. L'abbracciarono forte e mentre Rosalia piangeva in silenzio, loro cercarono di dare speranza al suo dolore, raccontando le storie di altri bambini che erano stati adottati e che avevano trovato tanto amore nelle loro nuove case. Alla piccola rivolsero un sorriso carico di tenerezza. Da quel momento e per un po' di tempo sarebbero state loro ad occuparsi di lei. Già sapevano che nessuno dei loro abbracci più teneri e nessuna delle loro carezze più affettuose avrebbero potuto essere per lei come quelli che la sua mamma le aveva dato. Rosalia non si decideva ad andare via e domandò alle suore se avesse potuto tornare a vederla ancora. Avrebbe potuto, però questo l'avrebbe fatta soffrire molto e avrebbe reso più faticoso il distacco. Le suore la incoraggiarono a scrivere un biglietto da dare ai genitori che avrebbero adottato la bambina affinché della sua scelta dolorosa rimanesse una ragione scritta. Mentre scriveva quelle poche righe con la mano tremante e gli occhi pieni di lacrime, Rosalia si chiedeva se un giorno sua figlia avrebbe letto quelle parole e che cosa avrebbe pensato. Si domandava se avrebbe mai avuto il desiderio di cercarla e sapere di lei. Il gesto che stava compiendo le sembrava troppo orribile e dentro di lei scese come il buio di chi pensa che un compito tradito non potrà mai meritare il perdono. Sono nata in Colombia, a Cúcuta, nella regione nord del Santander, il 3 settembre del 1976. Il mese successivo, a soli 40 giorni di vita, fui adottata da una famiglia italiana che in quegli anni viveva in Venezuela per lavoro. I miei genitori si trovavano nel paese sudamericano da molti anni. Mio padre dal 1961 e mia mamma l'aveva raggiunto 4 anni dopo. Il motivo che aveva spinto mio papà a lasciare la sua amata Catania era stata la difficoltà di ripresa economica che dagli anni 50-60 ancora affliggeva il Sud Italia. Il 28 giugno del 1958 si era sposato con mia mamma, che aveva conosciuto di ritorno dal servizio militare in Marina proprio a casa di mia nonna paterna, dove lei si recava tutti i giorni per imparare a cucire a macchina. Quell'amore così grande e semplice fu per loro la ricchezza maggiore, poiché i tempi in cui vivevano erano piuttosto difficili e il pur duro lavoro di mio padre non bastava mai per raggiungere la tranquillità economica auspicata. Così, dopo lunghe riflessioni, giunsero alla decisione che restare a Catania non era più possibile e abbracciarono un progetto di vita imprevisto che avrebbe portato loro grandi cambiamenti. Inoltre, i figli tanto desiderati da entrambi non erano arrivati in quei primi anni di matrimonio e questo sembrò loro un motivo in più per iniziare una nuova vita all'estero senza causare eccessivi trambusti in famiglia. Pur essendo rimasta incinta per ben 3 volte, le gravidanze si erano interrotte prematuramente e le previsioni dei medici non erano ottimiste. Vari specialisti le avevano sconsigliato di riprovare ad avere altre gravidanze, poiché ciò avrebbe comportato dei rischi per la sua salute e per la sua vita. Passarono 18 anni prima che il suo desiderio di maternità si incontrasse con il mio bisogno di una mamma che si prendesse cura di me. La nuova vita con la mia famiglia italiana iniziò ben al di là del confine tra Colombia e Venezuela, nella calda città di Maracaibo. Fu da subito una vita bella e semplice, fatta di tante piccole cose che imparai a gustare e a considerare sin da piccola come un grande regalo. I progetti dei miei genitori in quel periodo erano di rimanere in Venezuela, perché l'attività di mio padre stava regalando i risultati sperati. La serenità raggiunta ripagava la fatica di un lavoro faticoso e la lontananza dal resto degli affetti familiari. Prove difficili, però, dovevano ancora arrivare. Quando avevo compiuto da poco 3 anni, mia mamma iniziò a stare male a causa di precedenti interventi chirurgici e questo ci riportò in Italia. Gli anni che seguirono furono molto duri per mio padre, poiché sembrava che la malattia di mia mamma non lasciasse speranza. Più di una volta i medici, alla fine di complicati interventi chirurgici, gli parlavano di condizioni disperate. Non so dove mio papà trovasse la forza per continuare a sperare contro ogni previsione pessimistica e soprattutto la capacità di non far trasparire nulla con me. Fu talmente forte che l'unica cosa strana che percepivo in quel periodo della mia infanzia era l'assenza fisica della mia mamma. La persona più importante per me in quegli anni divenne mio padre. Quando ci ritrovavamo la sera, dopo le sue lunghe giornate trascorse tra il lavoro e l'ospedale con la mamma, lui accontentava sempre la mia richiesta di sentire per l'ennesima volta le sue avventure di bambino e ragazzino durante la Seconda Guerra Mondiale e i divertenti aneddoti del suo servizio militare in marina. Lui era capace di darmi serenità senza fare discorsi. Lui per me era la roccia, il sorriso sempre pronto a calmare le mie paure. Questo grande uomo era ed è stato la casa in cui sapevo di poter tornare per poter poi ripartire nuovamente, forte e sicura di me. Finalmente, dopo 3 anni trascorsi tra lunghi ricoveri per numerosi interventi chirurgici e brevi permanenze in casa, mia madre poté tornare a casa definitivamente. Il suo desiderio di fare la mamma, però, si scontrò con una realtà che non era più quella che aveva lasciato. Io ormai avevo iniziato la scuola e avevo acquisito una certa autonomia. Pur godendo della sua presenza nelle mie giornate, cosa che mi aveva ridato un senso di stabilità e normalità, non sentivo più l'esigenza di una persona che seguisse ogni mio passo, perlomeno non in modo evidente. Le prime comprensioni tra di noi iniziarono con i miei 13 anni, perché mia madre voleva essere sempre presente per me, quasi a voler controllare ogni mio passo, per assicurarsi che io stessi bene e che non mi accadesse nulla di brutto. Probabilmente temeva che il mio non essere sua figlia biologica, diversa anche fisicamente, oltre che caratterialmente, avrebbe reso più grande il distacco che si consuma tra genitori e figli negli anni dell'adolescenza. Fu così, per una decisione probabilmente maturata quando io ero ancora molto piccola, che i miei genitori decisero di tacermi la verità sulle mie origini. Gli anni dell'adolescenza arrivarono e passarono senza portare grossi scossoni nella mia vita, né in quella dei miei genitori. Tutto sembrava andar bene, finché un pomeriggio, a causa di un'imprevedibile banalità, quell'apparente equilibrio su cui si reggeva la mia vita iniziò a vacillare. Avevo 15 anni, ricordo che era estate. Io e mia mamma stavamo scegliendo da un beauty case gli orecchini da indossare il giorno successivo in occasione di un matrimonio. Tra le scatoline di orecchini, in fondo alla cassetta, c'era una busta chiusa con la carta ingiallita e istintivamente allungai la mano per aprirla e vedere cosa vi fosse dentro. La reazione di mio padre fu inaspettata. Bloccando la mia curiosità mi disse secco che lì non c'era nulla di importante, che si trattava semplicemente di sue vecchie carte. Molto rapidamente mise via la busta insieme al resto degli oggetti preziosi, lasciandomi una strana sensazione di sospetto. Fino a quel giorno io non avevo mai messo in discussione le parole di mio padre, perché percepivo la sua fiducia totale nei miei confronti e di conseguenza mi fidavo completamente di lui. Ma dopo quell'episodio in me si insinuò il dubbio che ci fosse qualcosa che io non sapevo e che avrei dovuto iniziare a cercare per conto mio, se dai miei genitori non mi fosse arrivata la risposta. La mia ricerca non ebbe inizio immediatamente, perché dentro di me sentivo che quello che avrei potuto scoprire sarebbe stato molto importante, che probabilmente avrebbe cambiato qualcosa nel rapporto con i miei genitori, e il mio grande attaccamento a loro non facilitò una presa di coraggio. In quel periodo mi ritrovai a parlare con una cugina più giovane di me, di 4 anni, figlia adottiva, la quale mi raccontò di aver trovato una lettera inviata da uno zio ai suoi genitori, in cui si faceva riferimento alla mia adozione in Colombia. Io rimasi inebetita e le dissi che sicuramente aveva letto male, perché io ero per certo figlia dei miei genitori. Lei non disse altro e io volli convincermi che il discorso potesse dirsi archiviato. Dentro di me, tuttavia, la domanda si fece man mano più forte, nonostante cercassi in tutti i modi di non pensarci, dicendo a me stessa che mia cugina aveva frainteso. Mi mettevo spesso davanti allo specchio, cercando nel mio volto le somiglianze con mia madre e mio padre, che avrebbero potuto fugare ogni dubbio. Desideravo disperatamente trovarle. Volevo essere simile a loro. Volevo essere interamente figlia loro, senza ombre di origini sconosciute. Dopo qualche tempo, l'estate era terminata e avevo ricominciato la scuola. Mi venne l'idea di cercare tra le cartelle cliniche di mia madre, sperando di trovarvi un riferimento alla mia nascita. Di foto che riprendevano mia madre incinta o di me e lei dopo il parto, non ne avevo mai viste. E alle mie domande in proposito, i miei genitori avevano sempre dato varie spiegazioni, che a quel punto non mi bastavano più. In quelle carte doveva esserci qualcosa che riguardava me. Le parole scritte nelle cartelle erano incomprensibili, poiché raccontavano una storia clinica molto complicata e descrivevano nei particolari i numerosi interventi chirurgici subiti da mia madre. D'un tratto, una cartella in particolare attirò la mia attenzione. Era datata a 1975 e il tipo di operazione che descriveva era inequivocabile: isterectomia. Cominciai a sentire un gran freddo dentro, poiché intuì che da quel momento tutto sarebbe cambiato. Fui io a sentirmi improvvisamente sbagliata e la mia vita mi sembrò all'improvviso basata su una menzogna. Ma cosa dovevo fare? Come parlare ai miei genitori di quella scoperta? Come chiedere loro delle spiegazioni? Dovevo rimettermi in piedi e prepararmi ad affrontarli. Se non ero figlia loro, qualcuno mi aveva abbandonata e loro invece mi avevano accolta e amata. Non riuscivo a capire il motivo del loro silenzio sulla mia storia. Così pensai che doveva esserci sotto qualcosa di veramente brutto e doloroso che mio padre e mia madre volevano risparmiarmi. Mi convinsi che loro, che mi avevano preso con sé sin da piccola e ormai mi conoscevano così bene, sicuramente avevano ragione a non volermi dire cosa fosse accaduto quando ero nata. Per questa illogica ipotesi, decisi di fare l'ultima cosa che avrei pensato di fare: tacere e rimandare a un tempo sconosciuto le mie domande e le richieste di spiegazione a mia madre e mio padre. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, il tempo passò senza che io lasciassi trasparire nulla della mia scoperta, come se nella mia testa non vi fosse posto per la verità sulla mia origine. Inspiegabilmente, tutto rimase conservato in un cassetto ben nascosto e impenetrabile, perfino me stessa. Gli anni seguenti furono intensi di studio, lavoro e novità, la più importante delle quali fu l'incontro con Alberto nel marzo 2003. Dalle lunghe chiacchierate con lui avevo capito che quel ragazzo era una persona speciale, che aveva fatto nascere in me il desiderio di continuare quel rapporto. A dicembre di quell'anno, durante le vacanze di Natale che trascorremmo dai miei genitori, andammo in chiesa a fissare il giorno del nostro matrimonio, il 14 ottobre del 2004. Il legame con Alberto e i progetti sul nostro futuro fecero riemergere in me le questioni sepolte da anni. Così, un giorno d'estate, durante le vacanze a Catania, approfittando dell'assenza dei miei genitori, Inaspettatamente assecondai l'irrefrenabile desiderio di cercare quella busta conservata sul fondo della cassettina degli oggetti preziosi. Nel prendere in mano il foglio ormai ingiallito, sentivo il cuore battere sempre più forte e un dolore lancinante mi esplose dentro al petto nel leggere quelle parole scritte in spagnolo che a malapena riuscivo a decifrare. Yo, Rosalía Escalante, doy esta niña al asilo para que las hermanas la entreguen a una familia que pueda darle lo que yo en mi pobreza no me creo capaz de darle. Por eso la entrego con todo el dolor de mi corazón, pero para que mi hijita más tarde no sea una pobre fracasada. Yo no la reclamaré jamás, por eso firmo. Io, Rosalía Escalante, lascio questa bambina all'asilo affinché le suore la affidino a una famiglia che possa darle ciò che io nella mia povertà non sono capace di darle. Per questo la lascio con tutto il dolore del mio cuore, ma perché un giorno la mia bambina non sia una povera infelice. Io non la reclamerò più, per questo firmo. Dopo anni ebbi la conferma di ciò che avevo scoperto tempo prima. Venni a conoscenza del nome di mia madre, Rosalía. Capii qualcosa di ciò che aveva scritto quel giorno così lontano e sentii forte dentro di me il bisogno di sapere. Ma, misteriosamente, ancora una volta, come era accaduto anni prima, la paura di affrontare i miei genitori in quel momento così importante della mia vita, con il matrimonio alle porte, mi fece nuovamente fare un passo indietro. Riponendo la busta al suo posto, decisi di non ripensarci più. I mesi passavano e le mie amiche appena sposate ci comunicavano la bella notizia della gravidanza, mentre nella nostra casa quell'annuncio non arrivava mai. L'attesa che cominciò a sembrarmi interminabile e l'aspettativa puntualmente disillusa di mese in mese iniziarono a far nascere in me un forte senso di frustrazione e dolore. Fu in quel periodo che iniziai a riguardare i miei album di foto di quando ero bambina e tutto il dolore della mia storia risolta cominciò poco per volta a farsi strada, inizialmente senza che nemmeno io ne fossi consapevole. Le domande mai espresse ai miei genitori sul perché mia madre mi avesse abbandonato e l'illusione che partorendo un figlio mio, quello strappo fisico che avevo vissuto nella separazione dalla mia mamma si potesse ricucire, stavano diventando istante dopo istante un mare di tempesta che non avrei potuto fermare. Ricordo molto bene quel pomeriggio di metà settembre del 2006. Io e Alberto avevamo appena ricevuto la telefonata che annunciava la gravidanza di un'altra amica e qualcosa si ruppe inesorabilmente dentro di me. Mi precipitai nella nostra camera e con la faccia schiacciata contro il letto iniziai a piangere disperatamente. Alberto rimase sconvolto. Non pensava che il mio dolore per il figlio che non arrivava fosse così grande. In realtà non immaginava che la mia disperazione di quel momento fosse legata a qualcosa di molto più profondo che avevo custodito per anni nel mio cuore con l'illusione di poter risolvere a modo mio. Tra le lacrime e i singhiozzi, mentre lui mi guardava stupito, gli dissi che dovevo raccontargli una cosa molto importante. E finalmente, per la prima volta, riuscii ad aprire a qualcuno il mio cuore, condividendo il peso e il dolore della mia ferita. Mentre lui mi stringeva e mi rassicurava, io provai per la prima volta nella mia vita la sensazione di libertà che si trova nell'essere guardati e amati interamente per ciò che si è. Le prime parole che mio marito riuscì a dirmi furono: tu sei una donna meravigliosa e adesso che so anche questo di te, capisco molte più cose. Ti voglio più bene di prima, stimo ancora di più i tuoi genitori. Però è arrivato il momento che tu parli con loro e gli chieda tutte quelle cose che non hai mai avuto il coraggio di chiedergli e che nemmeno loro hanno avuto la forza di raccontarti. Giunsero le vacanze di Natale e la sera stessa del nostro arrivo a Catania io affrontai mio padre. Dentro di me non c'erano né rabbia né recriminazioni, ma soltanto una grande domanda di verità. Grazie agli incontri e alla compagnia fattami nei mesi precedenti da persone che vivevano l'esperienza dell'adozione, avevo capito che solo condividendo le problematiche della genitorialità adottiva con chi è sullo stesso cammino si può affrontare tutto il dolore e tutte le domande che nascono nei figli e negli stessi genitori. Dinanzi alle mie domande inaspettate e rimandate per anni, la reazione di mio padre fu una commozione tenerissima. I suoi occhi si riempirono di lacrime e il suo viso divenne tutto rosso. Non sapeva da dove cominciare, temeva probabilmente una mia reazione negativa. Mi spiegò che quando io ero piccola, lui e mia madre avevano pensato che per parlarmi della mia storia sarebbe stato meglio attendere che io fossi cresciuta, che avessi potuto portare a compimento gli studi senza crociarmi con domande a cui loro non avrebbero saputo rispondere. Avevano deciso di rimandare soltanto finché io non fossi stata abbastanza forte da reggere il dolore per l'abbandono e per riconoscere che in fondo, pur non avendo avuto la possibilità di crescere con mia madre naturale, avevo ricevuto molto dalla vita. Tuttavia, nel continuo rimandare, si erano resi conto che non c'erano parole adeguate per raccontarmi quello che mi era accaduto e il momento della verità non era mai giunto. Io lo tranquillizzai dicendogli che avevo capito il motivo del loro silenzio, pur non condividendolo, e gli chiesi di rendermi partecipe di tutto quello che avevo atteso di sapere per 30 anni. E lui, come se non stesse aspettando altro, iniziò a raccontare come un fiume in piena. Mentre mio padre proseguiva emozionato a raccontare, a uno a uno i tasselli del mio primo incontro con i miei genitori andavano a comporre un quadro di una bellezza indicibile e un senso di pace si faceva largo nel mio cuore. Quando mio padre terminò il suo racconto, lo abbracciai a lungo in silenzio e dopo gli rivelai che in realtà ero a conoscenza di quella lettera e del suo contenuto. La busta che lui conservava da 30 anni era stata proprio ciò che da adolescente mi aveva spinto a cercare, fino a scoprire da sola una parte di verità sulle mie origini. Dopo il nostro chiarimento, tanto atteso e liberante, mio padre mi consegnò la lettera e ribadì che quando le suore gliela diedero, lui aveva capito che quello era un pezzo della storia tra me e mia madre naturale, che né lui, né la mamma, né nessun altro avevano il diritto di togliermi. Guardavo mia madre e i suoi occhi pieni di lacrime, così incapace di dire una parola, e mi accorsi che il mio unico rammarico in quella sera così meravigliosa per la mia vita era quello di aver aspettato troppo. La malattia che da più di un anno l'aveva colpita non le permise di rendersi conto fino in fondo di quello che stava succedendo e di gioire del fatto che anche per lei il peso dal cuore era caduto e finalmente potevamo guardarci senza riserve, senza ombre. Da quel giorno sono ridiventata, o meglio, mi sono riconosciuta consapevolmente e interamente figlia. La verità sulla mia origine, quell'abbraccio di perdono e gratitudine scambiato con mio padre e mia madre, generarono a partire da quel giorno un bene infinito che ha investito la mia vita e quella di mio marito in modo straordinario. La compagnia di mio padre e di alcuni cari amici ci ha sostenuto nei momenti più faticosi e ci ha portato a prendere in considerazione per noi quella stessa via per me tanto familiare, ma non per questo scontata, dell'adozione. Di giorno in giorno diventavo più consapevole di come la mia storia, che per anni era stata fonte di un segreto dolore, si stesse trasformando in una storia di bene e non solo per me. In quel periodo mi accorsi di poter dire senza ombra di dubbio che la mancata maternità aveva aperto la strada a qualcosa di molto più grande. Alla fine dell'estate, una volta tornata a casa, non passava un giorno senza che io prendessi in mano la lettera di mia madre naturale e con le lacrime agli occhi mi accorgessi di sentire un'inspiegabile nostalgia e l'immenso desiderio di sapere di lei. In pochi giorni mi ritrovai addosso l'irrefrenabile voglia di ricercare le mie origini, sfruttando le poche informazioni che c'erano nella lettera: il suo nome, il numero del suo documento d'identità e il luogo di rilascio. Alberto mi appoggiò totalmente e ciò mi fu di grande aiuto, perché mi resi conto che sarei andata contro me stessa se non avessi preso sul serio quella domanda grande che avevo nel cuore. Seppur nel timore di scoprire una realtà dolorosa, ero sicura che nulla avrebbe potuto cambiare il valore di me, poiché ciò su cui fondavo le mie certezze era più forte di qualsiasi situazione difficile che avrei potuto incontrare. Fu così che, armata di quella determinazione, a fine agosto scrissi sia al consolato che all'ambasciata colombiana. Dopo più di un mese in cui non ricevetti risposta dai due enti ufficiali, decisi di proseguire le ricerche in autonomia. Su internet trovai il sito del piccolo paese in cui era stato rilasciato il documento di identità di mia madre. Fu emozionante scoprire l'esistenza di quel paese così bello tra le montagne. L'imprevisto talvolta sorprende quando non ce lo si aspetta. Mi hanno risposto dalla Colombia. Lessi con il cuore in tumulto le righe scritte da un funzionario del municipio di Gramalote, Leon David, che aveva ricevuto la mia email e che stava compiendo delle ricerche sulla mia famiglia di origine. Aveva rintracciato alcuni miei familiari, tra cui un fratello, più giovane di me, di nome Juan Patricio. Quando lessi la parola fratello, mi invase un senso di meraviglia e di felicità che non avrei mai immaginato. Un fratello! Un fratello! Un giorno di gennaio, la mia amica Daniela, da casa sua, aprì la mia mail. Dopo un istante di silenzio che mi sembrò eterno, mi disse commossa: «C'è una mail da parte di Juan Patricio Suarez Escalante con oggetto «Saludos desde Colombia».» Riuscii solo a chiederle di leggerla, e mentre lei leggeva in spagnolo senza riuscire a trattenere le lacrime, anche io piansi. Piansi di dolore nel sapere che nostra madre era morta il 28 agosto del 2001 per una malattia incurabile scoperta troppo tardi. Piansi di commozione perché mio fratello aveva usato parole struggenti per raccontarmi chi era nostra madre e quali sacrifici aveva fatto per lui e per tutta la loro famiglia. Piansi nel sapere che lei aveva tenuto segreto alla sua famiglia il fatto di aver avuto una figlia e di averla data in adozione. Piansi, perché 6 anni dopo la sua morte tutti loro consideravano la mia esistenza un miracolo. Piansi, chiedendomi perché un avvenimento tanto straordinario stesse capitando proprio a me. Il desiderio di poter incontrare mio fratello in carne e ossa e non solo vederlo attraverso una webcam mi fecero capire che ero pronta a un incontro reale. Io e Alberto programmammo il nostro viaggio in Colombia per la fine del 2008. In mio fratello c'è una parte di nostra madre, una parte di me stessa che il 17 dicembre 2008 potei sfiorare e guardare negli occhi, riuscendo a riabbracciare tutta la mia storia, anche fisicamente, dopo 32 anni. L'arrivo a casa fu bellissimo. Ad Atena ci viene mia zia Moni, una delle sorelle minori di mia mamma, che era stata la prima a essere contattata dal funzionario del comune e a sapere della mia esistenza. Lei si era presa cura di mia mamma durante i mesi della malattia e dopo la sua morte, per Juan, è diventata una seconda madre. Monghi ci aspettava trepidante e lì accolse me e Alberto con un altro abbraccio indimenticabile. Quel pomeriggio, quella sera e nei giorni seguenti ci fu un via vai di parenti e un susseguirsi di incontri sia a Cucuta che a Gramanotte, il piccolo paese immerso nelle verdi montagne andine. La tappa più significativa del mio viaggio fu la visita all'asilo Andresen a Cucuta. Provai un profondo senso di pace nell'entrare in quel luogo così curato e bello dove ero stata accolta a soli 8 giorni di vita. Né io né le suore riuscimmo a trattenere le lacrime di gioia per una storia le cui fila si erano ricongiunte nella maniera più bella. In quelle 3 settimane incontrai tanta gente meravigliosa e vidi una straordinaria gratuità in ogni loro gesto. Ci fu un altro incontro che non avevo programmato, ma che una volta occupata decisi di affrontare, quello con mio padre biologico. Lui aveva saputo del mio arrivo in Colombia e aveva telefonato più volte a mia zia Monchi chiedendole di potermi incontrare. Pur avendo delle perplessità, accettai di vederlo. Fu piuttosto imbarazzante per entrambi. Lui provò ad abbracciarmi dopo esserci presentati, però io non accolsi il suo abbraccio perché avvertivo un senso di estraneità che invece non sentivo con nessun altro dei miei familiari. A distanza di tempo, credo di poter dire che quel senso di estraneità sia stato dovuto al pensiero di mio padre adottivo, che per me è sempre stato l'unico padre. L'incontro con quest'uomo, a cui biologicamente devo la vita, non ha tuttavia inciso nel mio percorso ritroso in maniera determinante. È un legame oggettivo, impossibile da non riconoscere il nostro, ma il trascorrere del tempo non ha finora attenuato quell'estraneità iniziale che ho avvertito da subito verso di lui. Sicuramente l'avvenimento più prezioso del mio viaggio in Colombia fu che nel tempo a nostra disposizione riuscii a riconoscere meglio mio fratello. In una delle nostre passeggiate per Cucuta andammo al cimitero a portare dei fiori a nostra madre. E lì Juan iniziò a raccontarmi della sua vita, dei suoi ricordi di Rosalia e di quanto aveva sofferto per la sua morte. Mi aprì il suo cuore, confidandomi quanto fosse stato grande per anni il suo rammarico per non essere riuscito a regalare a nostra madre piccole cose come una vacanza al mare o un forno da cucina che lei desiderava tanto.